Ok, buongiorno. E adesso, dopo che abbiamo festeggiato tutti insieme la festa di Shavuot, abbiamo riconfermato la nostra accettazione della Torah. Ora dobbiamo studiare la Torah, l'abbiamo festeggiata, ora la dobbiamo studiare. Allora proseguiamo sul corso di Halakha legato al Basar Bechalav, carne e latte. Ora entriamo un pochino nel discorso e faremo qualche esempio riguardante la situazione che può capitare qualora degli elementi latte e degli elementi carne si mischiassero o venissero in contatto. Come ci si deve comportare? Spesso la gente mi dice, a casa mia è successo così, così, ho preso, ho buttato tutto. Non necessariamente è necessario fare questo. In molti dei casi. Quindi vediamo un po' di che si tratta. Allora, ma'achal halavi, un cibo di latte, kar, freddo, shenaga, che ha toccato, cioè c'è stato un contatto, bivsari kar, in un cibo di carne sempre freddo, quindi un contatto a freddo in parole povere. Im shnehem yaveshim legamre, se sono entrambe yavesh, cioè secche, non c'è umidità, non sono bagnate, yesh leafridam, bisogna semplicemente separare l'uno dall'altro, velivdok, e a occhio controllare, se lo nidbak mise al ze, che non ci sia appunto un residuo del latte sulla carne o della carne sul latte, e poi, una volta visto che non c'è residuo, shnehem mutarim b'achila, sia elemento carne che elemento latte rimangono permessi da mangiare separatamente. Quindi contatto a freddo e a secco, senza residuo, non è neanche necessario sciacquare. Bello adacha. Basta che all'occhio si vede che non c'è contatto. Se invece una delle due era un po' umido o se era bagnato, quindi haya afilu echad mehem lach, anche se solo uno, elemento carne oppure elemento latte, era un po' lach, cioè umido, bimeat un po', allora madichim, allora bisogna sciacquare, bemaim poshrim o karim, con acqua tiepida o fredda, bemakom shenaguse basè, il punto in cui c'è stato il contatto va sciacquato. E di nuovo shnehem mutarim, di nuovo entrambi gli elementi rimangono permessi. Questo può accadere quando magari su un ripiano del frigorifero c'è qualcosa e un po' di latte magari dal ripiano superiore va a finire in una pietanza di carne o di pollo che era nel ripiano inferiore. Allora, per esempio, in quel caso bisogna prendere questo pollo, metterlo un po' sotto l'acqua per sciacquarlo da eventuali gocce di latte che possono essere cadute da sopra e poi rimane un elemento permesso. Ok? Questo è sempre contatto a freddo. Ora, un contatto a freddo che però è grasso o salato, anche se è secco, va comunque sciacquato. Prima abbiamo detto che se è un contatto freddo secco non bisogna neanche sciacquare, basta vedere che non c'è residuo. Ma se fosse un elemento molto grasso o un elemento salato, allora si considera più facile la contaminazione, tra virgolette, e quindi va anche lavato, anche se non sembra ci sia umidità. Quindi questa è la prossima indicazione che ci viene data. Halavi kar, un elemento di latte freddo, shenagabe vesari kar, che sempre c'è il contatto con un elemento di carne sempre freddo. Però, come dicevo, echad mehem shamnuni, uno dei due elementi è grasso, quindi teunim adacha, serve il sciacquare, im shifshuf etev b'makom hanegia, e non solo un risciacquo, mette un po' sotto l'acqua, ma anche shifshuf significa Strofinato. una strofinata buona sopra il punto in cui c'è stato il contatto. Haya echad mehem maluach, o anche se uno dei due elementi era salato, maluach, melach, salato, Kol sheken shenehem, a maggior ragione se fossero entrambi gli elementi salati. Allora anche qui tzarich le'adecham afilu shnehem yibishim. Anche qui bisogna fare il risciacquo anche se fossero entrambi secchi, come abbiamo detto prima. Per ciò che riguarda invece il pane chiaramente si considera il pane parve, e in genere, come abbiamo già studiato, il pane bisogna sempre farlo parve, a meno che si rientra in certe condizioni che abbiamo spiegato le altre volte. Allora il pane, shenagabe basaro gvina. Se uno mangia un pasto di carne e a tavola c'è il pane e il pane tocca la carne, o se fosse un pasto di latte tocca il formaggio, allora quel pane, assur le ochloim amina sheni, quel pane che ha toccato il formaggio non lo possiamo più mangiare in un pasto di carne, con la carne, se non che, elaim ken mekalfim et mekoma magaba lechem, si ritaglia il pezzo. Si usa il termine sbucciare perché nel senso quanto devi tagliare, tipo quanto se fosse una buccia. Quindi questo è quanto bisogna tagliare. Quindi si sbuccia, tra virgolette, si toglie la parte che era in contatto diretto con la carne oppure con il latte, a seconda della situazione, e poi il pane riassume lo status, diciamo così, di parve e lo si mangia in qualsiasi pasto, anche dell'elemento opposto, diciamo. Invece, se fosse un pezzo di carne caldo preso dall'arrosto o ai ferri e messo, ovviamente ha anche molta umidità e molto sugo, come si chiama? Sì, Diciamo della carne calda, e lo si mette sul pane o su una pagnotta, allora quel pane rimane di carne, non, anche se si toglie la parte che ha toccato, eccetera, qui non funziona il discorso, rimane di carne. Quel pane non lo si mangia con il latte. Quindi un nach alla lechem, se è stato posato sul pane, basar tzalim rotev, della carne calda con il suo sugo, lo yoil afilu kiluf. Lì lo sbucciare, tra virgolette, non è una soluzione. Ve'alechem asur b'achila in gvinah, e quella pane lì rimane vietato da mangiare con il formaggio o con il latte. Quindi fino a qui abbiamo visto il contatto a freddo, soprattutto tra carne e latte. Come si fa con il contatto a caldo? Innanzitutto, cosa significa il contatto a caldo? Quanto caldo è considerato caldo per l'alakha in questo contesto? Si chiama yad soledet bo. Yad soledet bo, cioè il caldo che, se tu lo dovessi toccare con le dita, tiri subito via la mano, quello che ti disturba la mano. Ora, questo è stato, diciamo, definito più o meno, secondo la maggioranza dei poskim, come 45 gradi di calore. Ok? Quindi un liquido o un cibo, 45 gradi di calore, è considerato caldo per ciò che riguarda l'alaha. Cosa succede se si mischiano elemento carne, elemento latte a caldo, non più a freddo? Basar ve chalav rotchim, carne e latte caldi, shenitarvu yachad, che si sono immischiati l'uno con l'altro, oppure anche se solo uno dei due elementi fosse caldo, vafilu echad mehem cham, per esempio, kegon, shenishpach chalav kar, se per esempio fosse stato versato del latte freddo dentro ad una pietanza o dentro più che altro una pentola di bassar roteach, di carne calda. Allora ho una pentola di carne calda sul fuoco e per sbaglio del latte freddo, anche se fosse freddo, cade dentro, ci viene versato dentro. O l'opposto, nafal bassar kar, o della carne fredda che viene a trovarsi dentro a una pentola di latte caldo. Etoch alav roteach. Allora, in quel caso, hakol ne'esar. In teoria, sia il latte che la carne di questa pentola, dove si è mischiato dentro insieme, è tutto vietato, a meno che, ela imken, yesh pi shishim be'echad mehem keneged hasheni. Se c'è 60 volte quanto di uno rispetto all'altro, allora l'elemento intruso, diciamo così, diventa batel. Batel significa che diventa annullata la sua come se fosse annullata la sua presenza o comunque la sua forza di contaminare, e rimane l'elemento permesso. Cioè, per esempio, se cade dentro ad un pezzo di carne, cade dentro ad una pentola di latte bollente, di latte caldo, allora se il latte ha un volume di almeno 60 volte quanto il pezzo specifico di carne che è caduto dentro, allora si può bere il latte. Ovviamente il pezzo di carne che è caduto dentro bisogna toglierlo e non si può mangiare, quello rimane vietato, il pezzo stesso. Inoltre, per togliere quel pezzo di carne bisogna cercare di evitare di toglierlo con un cucchiaio, che sia di carne o di latte, perché il cucchiaio non diventi vietato e debba subire una cacerizzazione. Meglio usare la mano con il guanto oppure Mostruzione. uno stuzzicadente o un cucchiaio che va a perdere di plastica, qualcosa che poi butti, e quello allora diventa più semplice per gestire la situazione, ma il pezzo stesso chiaramente rimane vietato. Se non ci fosse il volume di 60 volte quanto, allora rimane tutto vietato, quindi tutto il cibo non si può mangiare, bisogna buttarlo, e la pentola stessa anche è vietata e va cacerizzata. Quindi se non c'è il volume di 60 volte quanto, il cibo stesso è vietato e la pentola va cacerizzata. Ora facciamo invece un altro esempio. Halav roteach. Se invece non parliamo di una pentola, ma del cibo stesso, se avessimo del latte bollente, caldo, shenishpach al basar kar, che viene versato per sbaglio su della carne fredda, quindi ho sul tavolo un pezzo di carne freddo e su questo viene per sbaglio, si versa il cappuccino con latte bollente, oppure l'opposto, basar roteach, o della carne calda, shenafal halav kar, che cade dentro a del latte freddo, allora in questo caso cosa faccio? Divido i due elementi, cioè tolgo quella carne da quel latte freddo, mekalfim kedei klipa, e ho la possibilità, se fosse fisicamente possibile, di sbucciare, tra virgolette, cioè togliere l'elemento, la parte, la superficie esterna, come se fosse uno sbucciare, della carne, e il resto della carne che era interna rimane permessa. Il latte, a sua volta, che era freddo, rimane permesso. Ok? Quindi qui non parliamo della pentola bollente, ma parliamo, per esempio, come abbiamo detto, del latte freddo. All'interno cade della carne calda, si toglie la carne e la si sbuccia, se fosse possibile, e l'interno rimane permesso e il latte stesso rimane permesso. Ora, tipat halav, un goccio di latte, shenafla le toch sir shel basar, che cade dentro ad una pentola di carne. Se cade dentro al sugo della pentola, non su un pezzo, oppure su un pezzo solido che però sta dentro al sugo, o al chaticha shebetoch harotev, allora tutti i pezzi di carne e tutto il sugo insieme viene considerato quando si considera il volume dei 60 rispetto al goccio di latte che è caduto dentro. Perché diciamo questo? Perché se così non fosse, se il sugo non coprisse tutta la carne e il pezzo di latte cadesse su un pezzo di carne che è fuori dal sugo, che non è coperto dal sugo, quindi lo consideriamo un pezzo a sé stante, se vogliamo, allora ci deve essere 60 di volume nel pezzo stesso contro quel goccio di latte per rendere permesso quel pezzo di carne. Se non ci fosse 60 in quel pezzo, cioè in quella polpetta, per esempio, che sta sopra e non è coperta dal sugo e cade il latte su quella polpetta e quella polpetta non ha un volume di 60 rispetto a quel latte che è caduto, allora cosa succede? Quel pezzo stesso è vietato e bisogna toglierlo, ok? Ma non solo, quel pezzo stesso diventa vietato, quindi diventa, si chiama Chatichana Set Nivela, e cioè tutto l'intero pezzo prima era un elemento permesso, adesso diventa come se fosse taref, perché è considerato un miscuglio di carne e latte. Quindi ora a cosa serve? Visto che questo pezzo è caldo ed è taref, tra virgolette, ora tutto il resto della pietanza che c'è nella pentola deve essere almeno 60 volte quanto questo intero pezzo, non più il goccio di latte. Ok? Allora, se c'è nella pietanza 60 volte quanto questa intera polpetta, nell'esempio che abbiamo fatto, allora la pietanza rimane permessa dopo che si toglie questa polpetta. Ma se non ci fosse, se è una pentola piccola magari, una pietanza non molto voluminosa, allora diventa tutto vietato. Un esempio semplice, cioè Sì? se ci stanno sei polpette Sì. e una praticamente è diventata treccia, se Non è il non si numero di polpette, è proprio la la quantità a quantità livello di compresa anche volume, del volume del pomodoro di tutto quanto. compreso tutto quanto quello che Ok, c'è nella pentola. È proprio il volume. Non bisogna vedere la quantità o quanti pezzi o il peso, è il volume. Ok, molto bene. Quindi in questa situazione dipende se l'elemento carne è coperto dal sugo o no. Se non lo è, allora lo si considera una cosa a sé stante e a sua volta ha bisogno di avere 60 volte quanto quell'elemento lì che è diventato assurdo, è diventato vietato. Se è caduto questo pezzo di questo goccio di latte e nel mentre subito è stata mescolata la pietanza oppure è stata coperta con il coperchio. Quindi Niharu et Tassir è stato mescolato quanto si trova dentro alla pentola. O Kisuhu, oppure è stata coperta la pentola. Miad Kishna Flati Pata Halav, subito dopo la caduta di quel goccio di latte. Allora consideriamo tutto insieme contro quel goccio. Non consideriamo più l'unico pezzo o l'unica polpetta sul quale è caduto. Consideriamo tutto insieme. Shuv Efsharlim Dod Pishishim. Possiamo considerare per il 60, per il volume per 60 tutto quanto che è presente nella pentola, che nega da tipace nafla, in confronto a quell'unico pezzo di a quell'unico goccio di latte, e a col mutar, e tutto il resto, se ci fosse appunto questo volume, che normalmente ci dovrebbe essere se si tratta di un goccio, rimane permesso. Ok? Questo sempre se capita a fortiori per un incidente, perché farlo volontariamente è comunque vietato. Assolutamente, qui stiamo parlando che questo giustamente accade a fortiori, cioè è accaduto, bisogna sapere come gestire, ma a priori non è possibile creare il bitul, a meno che, cioè aumentare il volume per annullare, diciamo, l'elemento vietato. Però, secondo le autorità sefardite, in alcuni casi sarebbe sì permesso se si tratta di un divieto rabbinico, cioè se il problema è il pollo, non la carne stessa, allora ci sarebbe chi permette a posteriori aggiungere, aumentare il volume per rendere nullo quello che è presente. Ovviamente tutto questo che stiamo studiando è per dare delle basi, per dare delle indicazioni generali. Nel caso specifico che succede qualcosa in cucina, un pasticcio, alzare il telefono e chiedere al proprio Rav come comportarsi, perché la situazione potrebbe cambiare punto di caso in caso. Mi auguro una buona giornata. Capra in cucina uno con tutta la buona volontà.